Stiamo percorrendo il cammino di Gigi D'Agostino, che sono io. Una volta un bravo dottore amava i lamponi e leccava le more. Suonava le storie con anima e cuore, ma era imperfetto e viveva in errore. E viveva in errore. Looking for them.

notte. Sintonizzato sulla frequenza della benevolenza, M2O. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Un programma vario, precario, precario, precario, precario, precario, precario.

freno. Cerca il freno. Ferma un posto treno. Ci fermiamo un attimo per cambiare rotta. M2O, musica allo stato puro, ti ripete sicuro. All'ora sesta c'è la musica che pesta. C'è la musica che pesta. Muovi un po' la testa. Se volete scrivermi, il numero di telefono per mandare i vostri sms è il seguente: 333-64-67-662. 333-64-67-662. 333-64-67-662.

così le storie, la scrivi la tu, magari più bella. E se non ti piace così la storia, la scrivi la tu, magari più bella. Magari più bella.